Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao a te Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, parliamo ancora una volta di viaggi andati a male, tra virgolette. Credo che la vicenda ci porti a raccontare un fatto accaduto in quel di Mestre. Sì, perché l'agenzia, diciamo, coinvolta in questa organizzazione che lascia molto a desiderare è un'agenzia mestrina, un'agenzia di viaggi mestrina, e devo dire che è il terzo caso che seguiamo con questa sempre vacanza rovinata da questa agenzia. E l'abbiamo anche raccontato qualche mese fa nel vostro programma, abbiamo raccontato di 7 pensionati appunto che sono trovati in gravi difficoltà perché hanno perso sostanzialmente i soldi del loro biglietto con cui dovevano andare in Egitto. Qua parliamo invece di un gruppo di 4 persone che avrebbero dato una bellissima vacanza in Cile e dovevano passare il Natale del 2015 e il Capodanno del 2016, erano anche parecchie settimane di vacanza con un Capodanno speciale, un Capodanno all'isola di Pasqua, meravigliosa isola cilena, e quindi insomma diciamo anche un po' la realizzazione del sogno soprattutto di una di queste persone molto appassionata di storia e di geografia, insomma molto appassionata di paesaggi di questo tipo. Cosa succede? Succede che l'agenzia alla quale allora si sono rivolti e alla quale hanno anche sborsato parecchi soldi per il pacchetto completo gli ha prenotato quindi tutto il viaggio in Cile e il volo che avrebbe dovuto portargli il 29 all'isola di Pasqua. Ebbene, il 28 dicembre, quindi il giorno prima del volo, i titolari dell'agenzia hanno chiamato i 4 viaggiatori annunciandogli che il volo che doveva portarli all'isola di Pasqua era stato annullato e che quindi insomma avrebbero dovuto cambiare programma pur avendo sborsato a testa 810 euro per proprio quel volo specifico di 4 ore che avrebbe dovuto portarli da Santiago all'isola di Pasqua. E fatto sta che insomma le persone sono rimaste di stucco, sono andate a rivolgersi alla compagnia aerea cilena che doveva portarli lì, la LAN, che quindi quella che avrebbe dovuto annullare il volo, e lì hanno scoperto in verità che il volo era stato prenotato ben 9 volte dalla Jumeirah, però non era mai stato pagato, quindi ogni volta la prenotazione scadeva fino a che a un certo punto non c'erano più posti in aereo, quindi alla fine le persone ignare sono andate in Cile pensando di avere il loro volo che in realtà non era mai stato prenotato. Il problema qual è? Che anche una volta tornati a Mestre sono andati ovviamente a protestare con l'agenzia. L'agenzia ha negato la loro responsabilità pur di fronte al foglio che testimoniava tutte le prenotazioni scadute, quindi non ha voluto riconoscere nulla alle 4 persone, anzi insomma le 4 persone sono sentite anche un po' prese in giro, come hanno raccontato alla nostra associazione, perché insomma hanno anche ricevuto varie promesse di qualche risarcimento, qualche soldo in giro, in realtà allo stato attuale non hanno ricevuto niente, tanto da essersi rivolte al nostro ufficio legale. E devo dire Francesco che facendo la somma di tutto quello che hanno speso in più a causa di questo disagio, ovvero alberghi, e hanno perso chiaramente i soldi del volo che li avrebbe portati a Santiago, del volo che li avrebbe portati all'isola di Pasqua, hanno dovuto noleggiare un'auto, insomma hanno speso un sacco di soldi in più, non hanno visto l'isola di Pasqua. Noi siamo andati a chiedere un risarcimento di 3.000 euro a persona, ora attendiamo risposta da questa agenzia e vediamo se sia il caso chiaramente di passare a un'altra azione legale. Ricordo che ne abbiamo già una in corso per i 7 pensionati di cui ti accennavo inizialmente. Ecco, quindi anche in questo caso già una volta avevamo detto che certe volte è bene tenere la vecchia agenzia piuttosto che passare a una nuova, se con la vecchia siamo sempre andati bene. Si lascia la strada vecchia per la nuova, lo sappiamo. Devo dire che in realtà poi queste persone avevano già utilizzato questa agenzia per un altro viaggio in realtà il figlio di uno di loro, e il viaggio era andato così e così. In realtà era un viaggio a Londra, insomma abbastanza vicino, c'era stato qualche problema, però niente a che vedere con questo tipologia di problema. Ma qua purtroppo, seguendo noi tre casi, vediamo un metodo che non ci sta convincendo, vedremo alla fine cosa succede. E comunque invitiamo tutte le persone chiaramente a non mollare mai quando succedono cose del genere. Il nostro sportello Vacanza Informata da questo punto di vista funziona molto bene ed è molto operativo. Ecco, mi sembra utile ricordarlo: www.associazionedifesaconsumatori.it, il vostro sito, i contatti con i numeri di telefono per chiedere lumi e informazioni. Immagino che se a voi come Adico sono capitati tre casi sempre con questa agenzia, chissà, mi viene da pensare, quanti altri casi vacanze organizzate male, diciamo così, ci possono essere. Sì, infatti ci attendiamo sicuramente di avere altre storie proprio riferite a questa agenzia, e chiaramente andremo a raccontarle tutte durante il tuo programma. Va bene, allora, se vi è capitato qualche cosa che non è andata bene con un'agenzia di Mestre, fatevi sentire con l'Adico, magari mettendo insieme le cose poi qualcosa riusciamo a far saltare fuori. Grazie a Gianluca Codognato, grazie all'Adico, al prossimo appuntamento. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.